mesi l'Italia solo andata. La famiglia di Gaetano si è salvata, figlia della polvere, sola e abbandonata. Brasile, Italia solo andata. Figlia della polvere adottata senza nome. Campi di caffè, favela e cotone. Carnevale, Mato Grosso, cantieri di sudore. La tua bocca bianca e rosa, mosca che si posa su un cucchiaio di pietà, su un grembiule imprigionato dai palazzi di città. Carne aperta, cicatrici di pazzia, liquido bollente, bastonate, anoressia. Te ne vai, dal Brasile voli via, da bandiere, da camicie nere, polizia. Tu mastichi la coca, nella luce fiocca della luna cerchi una costellazione. Un peschereccio che ti porti via da questa piantagione. La tua pelle nera brucia al sole, a Rio. Da un padre che ti annusa, abusa del tuo corpo, pregiudicato in fuga, ti violenta di nascosto. Brasile, Italia, solo Dalmazio a Milano, il ragazzo sotto cure mediche, la donna sterile, due libellule cercavano su internet un messaggio, una bottiglia, una conchiglia, dove sentire il mare percorrendo miglia, lottava a meraviglia, sognavano una figlia da plasmare come argilla. Dio ha provveduto perché è arrivata Ile, dal Brasile ad aprile, come spezie dentro un mercantile, da un tribunale minorile ad infantile, vittima di voci, di persecuzioni. A 7 anni le tue prime mestruazioni, autolesionista. Sei mal vista da un'Italia conformista, sempre più razzista, sempre più razzista, sempre più razzista.